aria e respiro, sorriso sincero. Labbra di parole, spine rose, viole. Passerà in silenzio, senza voltarti indietro. Padrona del tempo, del mistero, del senso. Cerca di me, mi ritroverai fra le righe di una canzone, fra le rime in un'emozione. Chiedi se vuoi, ma quanto mi dai? Una moneta e ti mostro il cammino. Non fare domande sul tuo destino. Sciogli la matassa e tessi la tua trama. Sono come i mari, come l'acqua del fiume. Vesti da contessa per l'uomo che ti ama. La casualità non puoi evitare. Dipingi il domani coi colori del giorno. Scorrere del tempo, la luce di un lampo. Dai forma con le mani i giochi d'ombra dell'inverno. Che tutto cambia come quando cambia il vento. Cerca di me, mi ritroverai tra le righe di una canzone, tra le rime in un'emozione. Quanto mi dai? Una moneta e ti mostro il cammino. Non fare domande sul tuo destino. Tra chiaro e scuro nasconderai il vato. Sono l'energia che fa muovere le cose. Il momento più vero, l'oblio dimenticato. Negli occhi innamorati delle spose. Più grosso sarà il peso, maggiori saranno gli affanni. La poesia del vero, il narrato, l'eresia. Un sentimento intenso, il profumo degli anni. Illusione, la reale, incessante fantasia. Cerca di me, mi ritroverai.